che ciò viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Tecnologia, rimpianto e solitudine, vi racconto la mia notte senza stelle. E Susanna Tamaro oggi su due bei paginoni del giornale racconta quanto sia triste, vacua e vuota la tecnologia che ci toglie da quelle che sono le basi essenziali della vita, che sono i comandamenti. Ma ha ragione dal suo punto di vista, ma non sono molto d'accordo sul fatto che la tecnologia ci renda infelici, ci renda vuoti, ci renda solitari. A me la tecnologia mi ha dato tantissimi amici, mi rende felicissimo, ma forse questo è un mio profondo limite. Questa mattina vorrei intrattenervi sul nostro diritto, anzi sul nostro dovere ad essere felici. Essere felici è qualcosa che ci dà angoscia, perché la nostra felicità, quando ci si legge addosso, subito causa sconcerto intorno a noi. Perché mai sarà felice? Cosa c'è da essere felice con quello che accade nel mondo? Ma come puoi essere così felice? Ma beato te che sei felice! E uno, naturalmente, corre velocemente alle parti che più lo rassicurano sul fatto che la sua felicità possa essere duratura. Pensate che sia tanto difficile essere felici? Sì, ci sono le grandi, enormi, le immarcescibili felicità che sono belle per essere contemplate, per essere desiderate. Poi ci sono tante piccole, sottili felicità che corrispondono all'infilarsi in delle fessure che si dischiudono lungo il corso della nostra vita molto velocemente, poi si chiudono subito. Bisogna infilarcisi dentro, dire: questo momento di felicità che mi prendo è il mio, me lo voglio godere alla faccia di tutti, o perlomeno in pieno rispetto degli altri. Perché? Perché quando noi siamo felici siamo molto di peso, e molto meno di peso per il nostro prossimo, e il nostro prossimo dovrebbe essere contento, sollevato del fatto che noi siamo felici, non invidiarci. Perché non riflettete un attimo su quando vi siete sentiti felici l'ultima volta? Felici, felici, felici, felici, felici, felici, felici, felici. Non barate però. Non venite a raccontare che avete provato felicità nella gioia altrui, nel dono di sé, nell'altruismo, nelle piccole gioie del quotidiano. Fate il conto alla fine di una giornata su quanto tempo avete dedicato al vostro essere felici senza porvi il problema degli altri. Felici. Per felicità qui si intende una pura, egoistica, esplosiva e devastante sensazione di piacere individuale, personale e incondizionato. La felicità non ha una formula esatta, ma ognuno di noi l'ha comunque sfiorata ogni tanto. Perché quindi non ce la riprendiamo ogni volta che vogliamo? Io ho quel che ho donato, vero, giusto, sacrosanto. Nello sguardo del mio prossimo io vedo il lume della mia felicità, verissimo, sacrosanto. Io non vorrei mai dirvi che occorre essere indifferenti. Ma a volte pensare un secondo, un attimo, un istante a se stessi e pensare che forse abbiamo diritto di prenderci quel grammo di felicità concessa, che non fa male a nessuno, che non lede nessuno, che non toglie niente a nessuno, fa bene alla nostra salute, ma fa bene anche alla salute del mondo. Beh, la domanda è questa: 800 24 00 24. Pensate da quanto tempo non siete veramente felici, e pensate quanto sarebbe facile per voi avere un istante di felicità. Esiste un limite all'essere felici? Esiste senso di colpa per felicità individuali che non siano equamente distribuibili come bene comune? Insomma, essere felici, oltre ad essere un lecito diritto, non è pure un nostro inalienabile dovere. Felici, felici, felici, felici. Ci sono state filosofie, ci sono state religioni, ci sono moti moderni del pensiero che darebbero la formula della perfetta felicità. Bisogna essere felici, bisogna sorridere. Io diffido da coloro che ti si accostano sorridenti dicendo che hanno la formula della felicità. Non esiste una formula trasferibile della felicità, esistono tante piccole formule personali. La mia è semplicissima: occorre una parte di Cointreau, una parte di succo di lime e due parti di tequila. Si sa, il margherita è la mia formula di felicità. Con un margherita io sono felice se me lo bevo assieme a qualcuno che non ho mai visto, non ho mai conosciuto, o qualcuno con cui passo la vita. È comunque il piccolo chiavistello che mi abbassa le saracinesche sulla turpe e quotidiana bassezza e mi apre quello spiraglio di felicità. Ma avrete voi comunque delle formule per essere felici? Ci sarà una maniera per non dover sempre dire che la vita è soltanto una valle di lacrime, un mondo di mestizie, che l'incomunicabilità ci soffoca? Ecco, 800240024, ditemi se mai pensiate che sia diritto anche vostro di essere un attimo felici. È un'occasione d'oro a Luigi Calzoni, il cardinale, ma che fortuna, ti ha portato tutti i permessi, tutto, pure il divorzio via al Messico, ma ci pensi? Me fai divorzi al Messico qui, mi raccomando, a te non te può dire no. Ma soprattutto mostrati devoto, buttati in ginocchio, bacia l'anello, piangi, di che sei pentito. Avere la loro benevolenza significa ottenere tutto quello che ti serve nella vita. Dammi retta, Guido. Guido, mi raccomando, siamo nelle tue mani. Mi raccomando. Eminenza, io non sono felice. Perché dovrebbe essere felice? Il suo compito non è questo. Chi gli ha detto che si viene al mondo per essere felice? Dice Origene nelle sue omelie, extra ecclesiam nulla salus. Fuori della Chiesa non c'è salvezza. Extra ecclesiam nemo salvato. Fuori dalla Chiesa. Questo è Guido Anselmi, il regista di 43 anni, Marcello Mastroianni, che riflette l'angoscia di Fellini che non riusciva a fare il suo famoso film, 8 e mezzo, e gira e vaga fino a che un giorno alle Terme gli dicono che l'avrebbero fatto parlare con il cardinale, che gli avrebbe risolto ogni problema. Il cardinale, anche lui alle Terme, una sorta di luogo segreto, c'è un piccolo sportellino che si apre, c'è il vecchio antico cardinale coperto dal sossiego di tutti i suoi caudatari che lo coprono delle lenzuola, anche lui dentro le Terme, ma in un angolo lontano, separato, e gli domanda al regista, spinto da tutti i ruffiani, i lecchini, dicono ma chiedigli questo, chiedigli quell'altro, ti salverà la vita, io voglio divorziare in Messico. Lui vuole soltanto una cosa semplicissima, la formula della felicità, e va a chiederlo proprio al vecchio cardinale, che non può rispondergli altrimenti che dire: ma figliolo, non esiste felicità in quanto tu essere terreno, la felicità è in un altro mondo. Ma è giusto, ma questo dovrebbe essere il motivo per cui noi dobbiamo cercare disperatamente dei piccoli spiragli di felicità, i quali non dovrebbero dare fastidio a nessuno, nemmeno a chi ci dice che la felicità non è terrena, non è fatta di questa vita. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Cosa ne pensa? Io volevo dire questo, prima di tutto volevo dire questo, nelle democrazie più avanzate come quella americana, addirittura il diritto alla felicità di ognuno è scritto nella Costituzione, mi sembra che sia l'articolo 2. Che però non ci garantisce la felicità, il fatto che sia scritto. Però pensi che differenza, per esempio, tra i paesi di cultura cattolica come l'Italia e la Spagna e quelli di cultura anglosassone. Però le posso dire una cosa, Antonio? Ma guardi, io dico in coscienza, io sono molto grato alla cultura cattolica che mi permette di avere spiragli di vera felicità, proprio per il fatto che invece queste cose qua, che condivido senz'altro. Allora, mi dica la sua formula della felicità. La mia formula è questa: è affrontare tutti i problemi che ci sono, enormi nella vita e tutti i giorni, eccetera, affrontarli a viso aperto, anche se poi veniamo sconfitti. E questo la rende felice? Sì, anche perché affrontarli apertamente spesso mi porta a risolverli in maniera più facile. Cerchiamo di sintetizzarlo in una formula: non avere paura di nulla, va bene? Esattamente, sì. Non essere mai spaventati. Esattamente. Comunque vado a finire la cosa. Va bene, la sua formula di felicità è non essere mai spaventati. Io questa mattina vorrei, telefonando all'800240024, formule, non dico risolutive, ma che servono ad aiutare. Quindi tre parole. Per il nostro ascoltatore Antonio è non essere spaventati. Per me è Suor Margherita, che è la sintesi del cocktail che a me dà la felicità. Per Stefano Morigi, filosofo della scienza, arrivato trafelato questa mattina nel mio studio, qual è la formula della felicità? Se dovessi usare, anzitutto buongiorno, parole filosofiche, ti direi il principio di ragione insufficiente, cioè il fare cose a cui non sono obbligato e non sono tenuto a fare nei momenti più imprevisti e imprevedibili. Quindi tradotto in una esperienza quotidiana, fare azioni gratuite, irrazionali e folli. Esattamente. Silvana, buongiorno. Buongiorno. Mi fa piacere parlare con lei, la sua trasmissione intanto è piacevolissima e mi tiene molto compagnia. La rende felice? Volevo dire la che rende io felice. Posso godere, come diceva lei, del Margherita perché sono astemia. Questo è molto grave. Un piccolissimo momento di felicità che peraltro prosegue nel tempo è stato quando sono riuscita ad avere il mio primo cane. Che io ho desiderato per tutta la vita, ma con i miei genitori non potevo averlo, e finalmente sono riuscita ad averlo con mio marito. Gioia che veramente... Cioè, ha avuto un cane con suo marito? ...della mia vita, di una gioia infinita che neanche mi faceva dormire la notte. Quindi proprio il mio piccolissimissimo contributo sulla felicità, di cui lei parlava... Però me lo sintetizzi in una formula. Egoistico. È riuscire ad avere un cane assieme al proprio marito, questa è la sua formula di felicità. Sì. Non dava nulla agli altri, non dava peraltro neanche nulla agli altri, ma proprio è qualcosa di folle, irrazionale quanto mai, quindi se la rende felice lo appuntiamo. Maria Rosaria, buongiorno. Buongiorno. La sua formula della felicità. Guardi, io ho insegnato latino tanti anni e spesso con i miei alunni abbiamo riflettuto proprio sulla profondità di significato delle etimologie. Sì, ma lei va dalla formula, non ci giri intorno. In latino felix vuol dire ferace, quindi ferax e felix sono esattamente la stessa parola con qualche mutazione vocalica e consonantica. Quindi è felice chi è ferace, chi è fertile, chi produce e felicità per gli altri. Allora lei è felice quando si sente un animale selvaggio? Prego? È felice quando si sente un animale selvaggio, una fiera? Guardi che ferax viene dal verbo fero, che vuol dire io posso. Ah, di questo senso, non avevo capito, ecco, perfetto. Quindi è felice quando porta qualcosa? Certo. E se vuole, allora l'altruismo. Le racconto il mio ultimo momento di felicità, sì, che è proprio collegato a questa cosa. Sì. Io sono stata molto felice il pomeriggio del Sabato Santo, sabato prima di Pasqua, perché mi hanno contattato dei miei alunni di 7 anni fa, si sono maturati nel 2002 e hanno voluto rivedermi. Ci siamo incontrati in un antico caffè di Genova, molto affascinante, pieno di atmosfera, e siamo stati insieme tutto il pomeriggio e erano feraci. Ovviamente sono stata felice, ma perché mi hanno cercato? Perché evidentemente qualcosa avevo dato. Mi fa piacere. Allora, essere felici è dare qualcosa anche ai propri alunni ed essere feraci. Ci sentiamo tra un istante dopo l'informazione dalla borsa 800 24 00 24. Con Stefano Morigi metteremo in luce quella che è la formula della felicità da quando gli uomini si sono posti questo problema. 800 24 00 24, siamo qui alla ricerca disperata ma felice di attimi possibili di felicità, spiragli che si aprono nel quotidiano e ci permettono di avere questa sorta di fulminante esperienza, fulminante in quanto transeunte, quanto passeggera, quanto probabilmente ripetibile ma riproducibile comunque anche se in situazioni diverse, della felicità. Vogliamo essere felici? Possiamo essere felici? Possiamo una volta tanto smettere di preoccuparci della felicità altrui, ma pensare alla nostra per un istante, senza che faccia male a nessuno. Beh, mi è venuto in mente che in certe situazioni in cui sembra che l'infelicità domini sovrana, la rassegnazione, l'angoscia, il lutto, la disperazione, invece per paradosso è possibile scoprire degli attimi inaspettati di felicità. Ci ha fatto riflettere su questo Enrico Lucci nel suo ultimo servizio delle Iene, fatto tra le tende dei terremotati, dove ha scoperto che oltre tutto ciò che si può dire di disperante, esiste per qualcuno alcune possibilità inaspettate di essere felice, che mai avrebbe pensato, immaginato di poter provare nella vita vissuta dentro le proprie case ancora in piedi. La sera lei che faceva prima? Mi mettevo sul divano e mi guardavo la televisione, adesso no, ascolto le persone, siamo insieme. Io mi addormentavo davanti al televisore. Che programma vedeva in televisione? Carlo Conti. E manca Carlo Conti? No, assolutamente, la televisione no, non la vado neanche a guardare, assolutamente, non mi interessa. Qua è tutto uno spettacolo. La serata passata davanti alla televisione sono serate monotone, mentre qui no, qui c'è da vedere, da uscire, da guardare, da parlare con gli altri. Ci si alleggerisce dei propri problemi. Comunque si chiacchiera, è bello. Io ho rivisto una persona che non la vedevo da quando avevo 17 anni. Ci voleva il terremoto per farci rivedere. C'è solo la Pensare che oggi inizia il TV Turn Off Week, l'iniziativa che parte dall'Inghilterra di una settimana a televisore spento. Sono le verginelle, le vestali del mondo senza televisione, se ne stanno una settimana con la televisione spenta, come si astenessero dalle attività ludiche. Secondo me serve a ben poco, ma dà l'idea che comunque possano esistere dei momenti di consapevolezza in cui ci si accorge delle persone accanto e possono essere persone che ci danno felicità, ci regalano dei momenti di felicità inaspettata, come questa signora che sotto le tende terremotata si accorge di una persona che aveva perso di vista da 17 anni. Ci piacerebbe pensare poi quanto l'abbia resa felice questo incontro. Siamo più all'aria aperta, perché prima a casa è che si poteva giocare tanto. Vi conoscevate prima? No. Siete diventati amici adesso? Sì. Io prima dovevo stare sempre dentro casa. Ti diverti più adesso o prima? Più adesso. Più adesso. Stavo davanti alla televisione e non potevo uscire fuori, divertirmi con gli altri. Qua sto libero. Questa libertà ti piace? Sì, tantissimo. Io giocavo con la PlayStation. È meglio adesso o meglio la PlayStation? È meglio adesso, perché se tu vai a giocare alla PlayStation non è che vinci veramente, che ti vinci lo scudetto, ti vinci un premio. Là se lo vincono i giocatori immaginari, mentre qua se tu fai un gioco di calcio che ti puoi vincere, che ne so, delle caramelle, qua te le vinci. Ma vinci le caramelle vere? Con le caramelle vere, non... Si accorge il bambino improvvisamente che forse per la sua piacevolezza, per la piacevolezza del suo gusto, dei suoi sensi, è meglio vincersi una caramella vera che vincere magari degli importanti crediti con la PlayStation. Non è detto questo sia in assoluto la formula della felicità, non è detto che dobbiamo tornare tutti bambini vogliosi di caramelle, ma però in certe situazioni, in certi momenti possiamo aggredire degli spiragli inaspettati. E questa probabilmente è la filosofia che ha ispirato Dudi Coletti. Dudi Coletti, buongiorno. Buongiorno. Dudi Coletti è un velista italiano, ma ha pensato anche lui, come tante altre persone, di fronte alla drammatica urgenza del terremoto, che probabilmente mentre tante persone pensavano ai problemi primari, alla casa, alla sopravvivenza, all'elaborazione del dolore, al mantenimento dello stato di salute, lui ha pensato che queste persone avevano bisogno di felicità e quindi si è inventato un cinema sotto la tenda. Esattamente di cosa si tratta, Dudi? Tutto quello che sentivo poco fa, cioè sono andato lì subito pochi giorni dopo, ho visto che questa gente erano abbastanza isolati nelle tende, perché questo servizio adesso è andato in onda forse dopo questo delle Iene, ma allora erano ancora abbastanza chiusi. Sì, è di domenica, di ieri. Esatto, e invece questi erano ancora chiusi, ma perché in quei paesi dove molta della vita si svolgeva nella piazza del paese e non c'era più questa piazza del paese, non c'era più un punto di ritrovo. Allora l'idea anche da un po' da mio padre, che era regista cinematografico abruzzese, di fare una sorta di sala cinematografica dove questa gente potesse ritrovare, avere uno svago, anche dove fare anche film d'animazione per i bambini nel pomeriggio. E l'hai chiamato Teatro Nuovo Cinema Paradiso, che è una sorta di cinema da campo che porti in giro per le tende dei terremotati. Esatto, esatto. Questo abbiamo fatto adesso, questa prima, chiamiamola sala, Villa Sant'Angelo, e ora siamo in programma di farne, speriamo, almeno riuscire altre 3-4 nei paesi, almeno quelle puntiamo noi, nei paesi più piccoli, dove più c'è forse questa necessità di ritrovarsi, di stare insieme, perché abbiamo visto almeno anche dalle televisioni che tutti stanno seguendo i paesi più grandi. Ecco, tu hai pensato che nel pacco dono, nel pacco di solidarietà che ognuno di noi idealmente o concretamente prepara per i terremotati, oltre ai vestiti, al cibo, ai beni di conforto, debba esserci anche un po' di felicità? Direi sicuramente, perché è il primo passo per ricominciare, la vita sociale, il divertimento, quelle due ore che possiamo dare di spensieratezza, levarli dal dramma che ci hanno intorno, è la prima cosa, il primo passo per ricominciare una vita, diciamo, tra virgolette, normale. Vabbè, grazie Dudi Coletti, in bocca al lupo e auguri per il tuo nuovo Cinema Paradiso, il primo cinema da tendopoli, che però pensato e ideato per regalare momenti di felicità. Cristiana, buongiorno. Pronto? Si trova già nell'aldilà della felicità, sento un eco triplicato della mia voce. Spenga la radio. Scusi, sento male. Adesso ho spento la radio, forse andrà meglio. Ecco, perfetto. Dunque, io posso raccontare la mia esperienza, anche se di fronte a queste persone, appunto questa tragedia del terremoto, provo un po' di pudore. No, io guardi, questa mattina ecco. Bisogna essere spudorati, se no non ci conquistiamo un attimo di felicità. Rispetto, partecipazione, azione concreta verso chiunque soffra, ma dobbiamo per un attimo staccare la spina e infilarci nella fessura della felicità. Qual è la sua fessura? Sono d'accordo. Guardi, io posso dire che la mia esperienza è un'esperienza di grande sofferenza, prima del ritrovo della felicità, in quanto io purtroppo da quando avevo 18 anni ho sofferto di depressione e sì, però non ci parli di sfiga, signora, ci parli di cosa la rende felice. Assolutamente, sta di fatto che quando forse tocchi il fondo scatta in te un meccanismo che ti porta a decidere se vuoi sopravvivere e accontentarti di una vita mediocre o se vuoi trovare la felicità. E cosa ha fatto lei? Mi sono impegnata per trovare la felicità in ogni cosa. Io adesso sono sicura. Ma me ne dica che una. Chiunque voglia essere felice può trovarla. Ma in qualsiasi cosa, nel regalare un sorriso agli altri, nel poter anche gustare non ci credo. Un cioccolatino. Ecco, ma già certo. Questo è più concreto. Ecco, ma no, assolutamente, perché quando tu sorridi spontaneamente, la persona ti sorride e questo ti regala la felicità, ma regala la felicità anche ad altre persone. Ma in qualsiasi cosa si può trovare la felicità, anche soltanto rendendosi conto delle proprie capacità, perché io mi sento fortunata di poter appunto mangiare un cioccolatino se ne ho voglia, piuttosto che camminare con le mie gambe, visto che ci sono persone che non lo possono più fare. Vabbè, adesso io direi che di tutta la sua lunga dissertazione prendo solo la frase mangiare un cioccolatino quando voglia. Stefano Moriggi, vediamo di riportarla in termini di pensiero assoluto rispetto alle piccole esperienze quotidiane che ci vengono raccontate. Guarda, credo che tu faccia bene a invocare questa spudoratezza ingiustificata, che non è molto diverso da quello che io chiamavo il principio di ragione insufficiente, perché in molti degli ascoltatori che ho qui sentito credo che ci sia un equivoco, per dirlo con la professoressa che parlava prima, etimologico. In realtà felicità non riassume esattamente nella sua potenza eversiva e provvisoria e contingente quello che gli ascoltatori stanno riproponendo. L'ultima ascoltatrice sta riproponendo una fuga dal dolore, che non è una felicità in positivo, casomai lo è in negativo. È una medicina, è una panacea. Esatto. E gli altri, pensa alla signora che si conforta nel suo idillio domestico col marito e il cane, sta cercando una serenità. La serenità la si può conquistare nel tempo con una pratica, con scelte più o meno sagge, e la si può conservare. Ma non è il tema di oggi. Non è il tema di oggi. La felicità non la si conserva, non sai quando vieni, ma soprattutto non sai quando se ne va. È incontrollabile, è contro la virtù stessa che tu puoi conquistare. Bravo nel Stefano, tempo. Ma questo equivoco da cosa nasce? Dalla paura, dal terrore, dal sacro, terrificante e timore di essere felici? Sì, perché la felicità porta con sé un'incertezza fondamentale, quella che passa. E questo è insopportabile. Melog 2.0. Hai ragione, io ti rubo tempo e pazienza e non ti do niente. Forse è questo l'amore, non crede onorevole? Ehi. Vorrei cercare di vivere questo momento della nostra vita in modo più maturo, ma non è facile. La verità è che i nostri incontri fra i ruderi, nelle garçonniere, ti riportano un po' ai climi clandestini, ai tuoi 20 anni che ti ossessionano. Così, Mario, così è umiliante. O stiamo insieme alla luce del sole, oppure non dobbiamo vederci più. Ma io sono pronta a chiarire con mio marito, a scegliere. E anche tu devi scegliere, Mario. O me, o tua moglie. Ti prego di scegliere me. Questa è La terrazza di Ettore Scola, ne parlai l'anno scorso, uno dei più lucidi ritratti del ventre molle della nostra società. Gassman è il politico comunista, che in realtà ha una relazione con Stefania Sandrelli, lei è l'amante. Lei a un certo punto chiede di trasformare quello che potrebbe essere uno spiraglio di felicità, come diceva giustamente Stefano Moriggi, da gustarsi e poi da cancellare, sapendo la felicità transeunte, in una sorta di serenità diluita nella vita. Lui dovrebbe fare la grande scelta, o la moglie o l'amante. E lui, di fronte agli uomini del suo partito, invece di parlare della felicità come un bene da procurare alle masse lavoratrici, parla della sua felicità. Compagni e compagne, la più comune aspirazione di tutti gli uomini, sancita perfino nel testo di alcune costituzioni, è la ricerca della felicità. Io oggi sono qui per parlarvi di un mio problema personale. Io amo, infatti, una donna che indicherò con le sole iniziali, GT, perché essa è coniugata. Sarebbe legittimo che io, per vivere con questa donna, abbandonassi la compagna con la quale sono stato unito per 35 anni e che quindi è invecchiata con me, a aiutarmi, a comprendermi, a perdonarmi. Questo ipotizzato, certo doloroso abbandono, sarebbe poi conciliabile con il corrispondente diritto alla felicità di mia moglie? È conciliabile tutto questo con la salvaguardia del plurale sull'individuale che io e voi abbiamo sempre sostenuto per una società migliore, di liberi, di uguali? In sintesi, è lecito essere felici, anche se questo crea infelicità. Da triste cialtrone, vigliacco, ipocrita, si rivolge a quello che per lui è il tribunale assoluto, che è quello del popolo, e prova a comporre la sua aspirazione di voler comunque mettere assieme tutti i pezzi, fare tutti contenti, fare una scelta, fare qualcosa che dovrebbe dare serenità, tranquillità, ma non ha nulla a che fare con la felicità, con l'irruzione, con la fuga impossibile e imponderabile dal mondo, che invece è quello che ben sa fare. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Cos'è per lei la felicità? La felicità è la possibilità di poter vedere almeno una volta al giorno una persona, sia pure per pochi secondi, una donna di cui ho perso la testa, una bella puttana testa, e che è sposata anche ella come sono stato io. Parli forte, però non abbia timore, non lo dica a mezza bocca. Come sono sposato anch'io e l'impossibilità di avere una qualsiasi. Vi piacete, però non potete concludere. No, ma non ci conosce meglio. Lei mi ha notato qualche volta che mi manca qualche sguardo, ma di più non sento. Ho perso un momento propizio all'inizio per poter rivolgere una parola e adesso sembrerebbe troppo. Sì, però non è la felicità, è una condanna questa, mi scusi. Guardi, è una condanna quando per un giorno non la vedo. Ma da quanto dura questa sorta di vestibolo della felicità, di anticamera della felicità? Perché purtroppo sono anche razionale, cioè mi rendo conto che è impossibile un qualsiasi gruppo di relazione. Sì, ma è un problema di logistica, non sapete dove andare a consumare, qual è il problema? No, non è la fedeltà coniugale. Vabbè, se vi ponete questo problema non sarete felici, è logico. Ma mica sarete, io sono felice. Lei probabilmente non glielo. Allora la sua formula, diciamo, felicità è accontentarsi. In questo momento è questo. Va bene. Mi rendo conto che è una cosa che sembrerebbe da voyeur, ma non sono voyeur. No, non è da voyeur, ognuno. Guardi, bisogna essere molto laici nel rispettare. È la cosa che desiderebbe al mondo in questo momento, però. Lei le basta incrociare quello sguardo. Sarà un romantico. Non vi siete manco dati una carezza, un bacio, oltre gli sguardi nulla? Sì, sarebbe troppo, anche già se mi rivolgesse la parola sarebbe una cosa, mi rimarrei senza parola io probabilmente. E questo la rende felice comunque? È così, non so come. No, succede, guardi, succede. Ma è questo. Le auguro che di trovare felicità che si sovrappongano e sovrascrivano questa sua lancinante e quotidiana formula della felicità. Stefano Morigi, cosa ne dici? Mi veniva in mente, sentendo il signore, una vecchia frase di Flaiano che diceva che essere felici è desiderare ciò che si ha. Non mi ha mai convinto fino in fondo, perché capisco il senso che Flaiano attribuiva a queste parole, ma direi che rende più felice avere ciò che si desidera. Sì, ciò che non si ha. Bisogna essere capaci di sognare l'impossibile, di volere l'impossibile. C'era un vecchio motto, quando eri giovane, tu più che io, che diceva siamo realisti, vogliamo l'impossibile. In qualche modo quella era, al di là degli impastamenti ideologici in cui era incastrata, una sorta di ricetta per la felicità. Quelle che continuo a sentire mi sembrano delle sorte di anestesie rispetto a dei tormenti più o meno gravosi che riguardano la vita quotidiana. Guarda che drammatico trovare questa difficoltà nell'esprimere un istante di felicità. O siamo tutti infelici o abbiamo dimenticato quale sia la formula per avere degli istanti di felicità. Agata. Buongiorno a tutti. La prego, mi conforti lei, mi racconti un secondo di felicità. Sono felicissima, io sono veramente felice e non è una fuga dalla realtà. Che cosa ha fatto? Un percorso e sono arrivata a questo giorno dopo giorno. Le posso dire una cosa? Scusi Agata se sono pedante, non esiste felicità a cui si arrivi attraverso un percorso, questa è la mia convinzione. cioè la mia è completamente diversa, proprio per esperienza. È un percorso, secondo me, successivo alla serenità. Cioè io sono arrivata così e mi sento folle adesso, sono felice, mi piace, cioè non so, rido continuamente, ma potrei anche non avere nessun buon motivo. Ma cosa fa? Fa uso di superalcolici? Assolutamente no, non mi drogo e non bevo. Ma quindi, ci sarà qualche sostanza psicotropa che è entrata nella sua vita? Sono arrivata a questo perché giorno dopo giorno sono grata anche alle piccole cose. Sì, adesso, o me lo vuol dire o non me lo vuol dire, ma cosa è successo nella sua vita perché lei improvvisamente si è diventata felice? Ah, non lo so, infatti è questa la cosa bella, perché è una cosa inaspettata, non lo so neanch'io, non me lo chiedo neanche, perché dal momento in cui inizio a farmi delle domande o a chiedermi tante cose o avere delle aspettative, poi magari tutto questo crolla, o forse no, non lo so, non me lo chiedo, però sono felice, è così. Va bene, se ci fa piacere. E questa cosa attira continuamente la positività, cioè anche le persone, mi rendo conto perché sono passata insomma da questa fase, da una fase un attimino un po' più... Ma ha un maestro di vita, ha abbracciato una setta, qualcosa del genere, per capire? Non lo so, No, sì o no? No, non lo so. Fa pratiche fisiche, yoga, cose del genere? Assolutamente meditazione? No, assolutamente no. Accende degli incensi? No, niente di tutto questo. Si dedica ad attività amatorie irrazionali? Io canto, questo ti può aiutare, però non lo leggo neanche a quello, sinceramente. Va bene, allora per Agata la felicità è un fulmine a ciel sereno che ci coglie nella vita e non sappiamo perché. Giovanni. Salve, buongiorno. Niente, io sto da un po' di minuti a ascoltare e onestamente sono diventato ancora più convinto di quello che sostengo. Cioè? Ho bisogno prima di tutto da te, Gianluca, se mi dai la possibilità di fare un paio di premesse. Ma c'è un minuto, ne puoi fare mezzo. Cerco di essere sintetico al massimo. Prima di tutto non esiste la formula della felicità che vada bene per tutti. E cioè, l'ho detto all'inizio. Esatto. No, chiedo scusa perché io mi sono messo sì, in sì, ognuno ha la sua e voglio sapere la tua, esatto. Se possibile. La mia, allora, la mia prima di tutto è qualcosa che è bellissimo, perché la mia felicità sono i miei figli, la mia famiglia. Ogni giorno quando io mi sveglio con loro e li guardo... Ho capito. Sì, però la premessa che volevo fare era proprio questo. Naturalmente questa è una cosa che va bene per me, sì. Ma non va bene per gli altri, voglio dire. Perché certo. Come dicevo prima, Sant'Agostino, io non sono un bigotto, però lo cito. Sì, ma se qualcuno fosse felice della tua famiglia in particolare, forse non saresti molto felice te. Stefano Morigi. Scusa, no, chiudiamo con Stefano Morigi, perché ancora una volta ritornerò su questo tema in maniera cocciuta e come sempre faccio io. Perché è così difficile esprimere felicità? Questo signore non esprime felicità, esprime il piacevole quotidiano. Esprime la serenità di una famiglia conciliata dove tutti si vogliono bene. Te lo dirò con un aneddoto. Un lunare conduttore televisivo una volta mi chiese al finale della trasmissione, così a bruciapelo: lei è felice? E la domanda era mal posta, perché dava per scontato che questo fosse uno stato d'animo stabile. Non lo è, non lo può essere. Potevo rispondere se ero felice in quel momento oppure no. In realtà non ero felice di rispondere alla domanda se ero felice. Però è una questione episodica, è una contingenza dell'anima che anche una dichiarazione può, come quella dei diritti americana, può offrire, ma solo come possibilità, non certo come garanzia. Io di solito quando sono felice nessuno me lo chiede mai perché è occupato in altre cose. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.